Non so se Paul Adrien Maurice Dirac e Franco Rasetti si siano mai conosciuti. Presumibilmente sì. Entrambi fisici di primo ordine, avevano pressoché la stessa età e nel 27 avevano partecipato entrambi a quel famoso congresso organizzato dal regime fascista per accreditarsi agli occhi dell'intero mondo scientifico, commemorando pretestuosamente, commemorando il primo centenario della morte di Alessandro Volta. Un congresso famoso perché in quella sede per la prima volta i maggiori fisici del mondo, Einstein escluso se non vado errato, discussero della teoria della complementarità di Bohr e del principio di indeterminazione di Heisenberg. Di certo, ecco, di certo so che nessuno dei due, né Dirac né Rasetti, pur invitati, si unirono agli altri fisici che a Los Alamos misero in piedi quell'infernale meccanismo che portò alla bomba atomica. Rasetti anzi, che in una lettera ad Enrico Persico ebbe a scrivere come tra gli spettacoli più disgustosi di questi tempi ce ne sono pochi che uguagliano quello dei fisici che lavorano nei laboratori sotto stretta sorveglianza dei militari per preparare mezzi più violenti di distruzione per la prossima guerra. Beh, Rasetti ne fu tanto disgustato che prima nel 39 lasciò l'Italia per il Canada e più tardi abbandonò del tutto gli studi di fisica per dedicarsi alla biologia e alla geologia. Dal 3 luglio del 1945 al 3 gennaio dell'anno successivo, 10 scienziati tedeschi sono stati tenuti segregati in una fattoria inglese, Farm Hall. Erano il frutto della missione Alsos, che già poco prima della resa della Germania era stata inviata in Europa con almeno due scopi precisi: cercare di sapere a che punto erano i fisici con la bomba ed evitare che finissero comunque nelle mani dei sovietici, che sì, alleati lo erano, ma fino a un certo punto, ovvero fino al punto costituito dal possesso della bomba atomica stessa. Questa fattoria, stanza per stanza e fin nel giardino, venne trasformata in un'occulta centrale di ascolto e ogni parola di questi ospiti renitenti venne registrata e tradotta. Nel 1994, poco dopo che il segreto militare venne fatto cadere, queste registrazioni sono state pubblicate anche in italiano in Operazione Epsilon dalla Selene e ora, con il titolo del Club dell'Uranio di Hitler, sono state ripubblicate con le sagge annotazioni di Jeremy Bernstein e con un'approfondita prefazione di David Cassidy, da Sironi, editore Milano, di cui qualcuno di David Cassidy è quello che aveva fatto la biografia di Heisenberg, una delle splendida, bellissima biografia. E Heisenberg, per l'appunto, uno dei reclusi. Forse il più importante dei reclusi, tanto che alcuni dei compagni di prigionia lo chiamavano il capo. Fra le tante più o meno sciocchezze che gli internati si dicono, scrupolosamente registrate, fra animosità palesi, vecchi rancori, gelosie, viltà, accuse reciproche di inettitudine e soprattutto strategiche costruzioni di alibi, fra tutto questo Heisenberg trova il modo di citare una volta Dirac, dandogli del comunista, e Bernstein scrupolosamente annota a lato che anche qui, come in molte altre circostanze, per l'ennesima volta Heisenberg si sbaglia. I tedeschi avrebbero potuto arrivare per primi alla bomba atomica almeno per tre ordini di motivi. Il primo è che alla fissione dell'atomo, il termine fissione lo si deve a Otto Frisch, ricavato dalla biologia, in analogia con la divisione del batterio, no? Per l'appunto in biologia veniva detto, quando si scindeva due, di fissione binaria veniva detto. Nel 38 arriva primo il gruppo di Hahn alla fissione dell'atomo. E Hahn è un fisico tedesco, non iscritto al partito nazista, ma non certo oppositore del regime. Il secondo è che la maggior parte degli studi in materia era da considerarsi di dominio pubblico. solo dopo il 39 in America qualcuno e non la maggioranza capisce che sarebbe bene rintuzzare il proprio orgoglio di scienziato e non pubblicare i risultati delle proprie scoperte. Non a caso già nel 1934 una chimica tedesca, Ida Noddack, pubblica un articolo per correggere alcuni errori di Fermi e fra l'altro dice testualmente che se si usano neutroni per produrre disintegrazioni nucleari possono aver luogo reazioni completamente nuove e mai osservate prima. Beh, la Noddack fu ignorata, anzi anni dopo chi la ignorò disse che comunque si trattava di un articolo in anticipo sui tempi ed è per questo che nessuno l'ha tenuto presente. Il terzo motivo è che la Germania non difettava delle materie prime necessarie. L'uranio, che è un estratto della Peckblinde, era stato scoperto da un tedesco, Klaproth, nella Joachimsthal, ovvero nella valle di San Gioacchino, che sono montagne metallifere fra la Germania e la Cecoslovacchia. Tuttavia non ce l'hanno fatta. Non ce l'hanno fatta per un bel mucchio di ragioni. Numerosi errori di calcolo da parte del principale responsabile dell'impresa, Heisenberg, lo stesso che Ann, la sera in cui gli internati vengono a sapere della bomba Hiroshima, chiamerà mezza calzetta. Numerosi errori. L'antisemitismo e la sfiducia ideologica nella fisica non classica, tanto da rifiutare come ebraica la teoria della relatività di Einstein e buona parte della fisica quantistica, tanto da rinunciare a scienziati fondamentali del calibro di Lise Meitner e di suo nipote Otto Frisch, le divisioni interne fra gli scienziati, qualche attacco ben mirato da parte degli alleati, come i 3 attentati alla fabbrica di acqua pesante che nei piani di Heisenberg era indispensabile, e la mancanza di fiducia nel risultato. Una mancanza di fiducia che peraltro poteva anche minare il campo avverso, visto e considerato che Fermi, ancora nel 1939, a chi gli parlava della possibilità di una bomba atomica rispondeva fesserie, o al più ammetteva una remota possibilità, ma sì, nell'ordine del 10%, eccetera. E che anche lo stesso Einstein, peraltro, più o meno negli stessi giorni, ammise di non averci mai, ma mai pensato. Le registrazioni nella fattoria inglese confermano anche la nascita di una versione di comodo di come sarebbero andate le cose. È Carl Friedrich von Weizsäcker, grande amico di Heisenberg, appartenente ad una famiglia nota, famosa e potente, grande amico di Heisenberg, von Weizsäcker è lui a lanciare questa versione. È la versione che i fisici tedeschi non avrebbero costruito la bomba non perché non ne sono stati capaci, ma perché il loro umanitarismo gliel'avrebbe impedito. Non hanno voluto, insomma. Balle oggi sostenutissime sia da nazisti pentiti occulto nazisti in via di pentimento, che così cercherebbero di strappare almeno un pareggio con la parte avversa nel conto delle atrocità commesse, ed è sostenuta da cattolici, che così giustificherebbero la benevolenza dimostrata dalle autorità vaticane nei confronti dei gerarchi nazisti, stando zitti sull'olocausto, nascondendoli, facilitando nell'espatrio in Sud America, 70.000, mica pochi. I ricchi premi e i cotillon ad Heisenberg, nonché il grande rispetto per le venature mistiche della sua fisica, vanno tutte interpretate in questa chiave. Dalla necessità di emergere a qualsiasi costo nella competizione sociale derivano una crudeltà ed una stolidità della cultura talmente offensive da risultare insopportabili. Leggo L'emozione e la regola del cattedratico Domenico De Masi. E sulle prime rimango quantomeno perplesso nel vedere citato come uno straordinario caso di armonica creatività collettiva quanto si è realizzato a Los Alamos negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. La storia che ci racconta Rod, che all'argomento ha dedicato una monumentale e approfondita ricerca nell'invenzione della bomba atomica, altro libro la cui riedizione è proprio recente. Beh, la storia che ci racconta Rod è una storia che narra di errori, anche gravi e potenzialmente catastrofici, di paure, di incertezze, di divisioni, inimicizie, spionaggio, licenziamenti, insofferenza verso i militari, strapotere dei militari nei confronti dei politici, disperazioni varie di chi c'era là a Los Alamos. De Masi straparla di bellezza dell'ambiente, di gusto estetico, di carisma, di vicarietà delle funzioni e di altre amenità edulcoranti per dimostrare che di rose e di fiori è costellato il cammino verso la bomba americana. Fra queste rose e questi fiori, giusto per dare un tocco di armonicità in più e per rafforzare l'unitarietà delle forze del bene, dice che tutti i migliori fisici del mondo si sono prodigati a Los Alamos e nell'elenco, al colmo dell'indifferenza, ci infila anche Dirac e Rasetti. Perché la storia, ovvero la versione di storia oggi più conveniente, riclassifichi un raro gesto di intelligente coraggio civile nella melmetta di un'unanimità servile.